5C. Ascolta e trasforma. Incontra le amiche e le saluta. Ha incontrato le amiche e le ha salutate. Prende le valigie e le carica in macchina. Ha preso le valigie e le ha caricate in macchina. Scrive delle lettere e le spedisce. Ha scritto delle lettere e le ha spedite. Compra delle riviste di moda e le legge. Ha comprato delle riviste di moda e le ha lette. Scatta delle foto e le mostra ai familiari. Ha scattato delle foto e le ha mostrate ai familiari. Impara a memoria delle canzoni e le canta. Ha imparato a memoria delle canzoni e le ha cantate.